attenzione allora a dare del gay, soprattutto se pronunciato con intento di offendere. C'è stata la condanna. Sul fronte delle offese è recente la censura della frase "sarebbe meglio un uomo", attribuita a un sindacalista che in un'intervista valutava la gestione di un istituto penitenziario diretto da una donna. Dire "sarebbe meglio un uomo" non si può dire. Poi le maledizioni. L'augurio di morire di un male incurabile è condannato, non si può dire. Mentre "ti faccio vedere i sorci verdi", sì, si può dire, c'è stata l'assoluzione, nessuna sanzione. Italiani di merda non si può dire, però non c'è l'aggravante di razzismo e quindi è scattata la condanna. Mentre si può dare dei neonazisti ai partecipanti a una manifestazione di Forza Nuova, perché rientra nel diritto di critica. E poi ancora, come dire, è da vietare la linguaccia nei gesti. Non entra invece il conflitto col bon ton chi si lascia andare a vibrazioni da Oktoberfest. Vabbè, insomma, il dizionario dell'ingiuria. Non si può dare del maiale, ma si può augurare di far vedere i sorci verdi. Si può dare del compagno di merende a un politico, non gli si può dare del vigliacco. Se no, c'è la condanna. Votate sulle intercettazioni, bisognerebbe limitarne l'uso. Radio24.it. Soldi e dintorni. Eccoci, Deborah. Ma che annuncio. Mamma mia. Ma è come sei pimpante stamattina. Vabbè, non sottolineiamo. No. Allora, tra l'altro, non è tanto distante il tema di cui ci occupiamo questa mattina, perché andiamo con un grande cavallo di battaglia di soldi e dintorni. Credo che nell'ordine sia uno dei temi che abbiamo più volte affrontato in questo nostro piccolo contenitore dedicato all'economia e alla finanza del mattino. Parliamo di benzina. È inutile ricordare gli aumenti degli ultimi mesi che hanno portato la benzina per l'appunto a raggiungere e superare 1,43 euro al litro circa, il diesel 1,28. Spesso parliamo di gestori, di razionalizzazione della rete dei carburanti, di pompe bianche, cioè di quei distributori indipendenti, di self-service. Ci sono tanti aspetti per raccontare il caro benzina. Intanto oggi ci sono due buone novità. La prima, la preannunciata nello scorso fine settimana, il segretario Luca Squeri della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, e praticamente da oggi dovremmo vedere un paio di centesimi di euro al litro di ribasso, perché ha detto Luca Squeri questa settimana, a differenza di quella precedente, il prezzo alla pompa non si è ancora adeguato in misura sufficiente alle variazioni internazionali, per cui da oggi dovremmo vedere questa variazione. E poi l'altra buona notizia, che è quella sulla quale invece approfondiremo il nostro soldi e dintorni di questa mattina, è che parte una iniziativa, una campagna di Autostrade per l'Italia, si chiama Prezzo Amico. Qualcuno di voi l'ha già vista sui giornali, ci ha chiesto qualche delucidazione in più, soprattutto coloro che ovviamente frequentano una rete autostradale in maniera molto intensa. Mi riferiscono ovviamente a chi viaggia molto, soprattutto per lavoro, ma visto che finalmente il bel tempo si è affacciato anche in Italia, e allora è plausibile pensare che la bella stagione porterà maggior traffico sulle autostrade, particolarmente nel fine settimana. Allora speriamo di avere qualche buona notizia. Questa l'abbiamo trovata, Prezzo Amico. Stamattina ne parliamo con Lorenzo Lopresti, con direttore generale del servizio al cliente di Autostrade per l'Italia, che saluto. Buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno allora, a lei e ai suoi ascoltatori. Ci spieghi subito di che cosa si tratta? Intanto, da quello che capisco, si parte oggi, dottor Lopresti. Si parte oggi in maniera continuativa su 80 aree di servizio della nostra rete, una ogni 60 chilometri circa, ha un cartello che caratterizza l'area con il nome Prezzo Amico. Per tutte, diciamo, queste aree di servizio, sia per la benzina che per il gasolio, in modalità self-service ci sarà un prezzo, diciamo, competitivo. Quale potrà essere lo sconto? Sarà variabile in relazione anche all'andamento del prezzo? Sarà di almeno 6 euro senza al litro, però io faccio un esempio. Mi sono collegato proprio un quarto d'ora fa, in attesa di essere contattato da voi, sul nostro sito www.autostrade.it. Sono andato sulla parola aree di servizio e mi sono stampato i prezzi sulla Milano-Napoli, da Milano fino a Napoli, di tutte le aree di servizio. Alcune di queste aree hanno il logo Prezzo Amico, e sono andato a verificare, per esempio, il prezzo del gasolio a San Martino, all'altezza di Parma, piuttosto che a Cantagallo, all'altezza di Bologna, piuttosto che a Montepulciano, all'altezza di Arezzo. E il prezzo

speriamo, almeno fino alla fine dell'anno, non è detto che poi non venga prorogata, ma intanto partiamo, che è già una notizia importante. La ringrazio, buona giornata, presto, dottor Lopresti, magari ci risentiremo prossimamente in procinto dell'estate, quando il traffico si intensificherà ulteriormente, per verificare un po' anche com'è andata, insomma, va bene? Bene, grazie a tutti, a presto, buona giornata. Viaggio. Alessandro, hai finito di ridere e girarti all'altra parte con Gaia? Non ti do più la mia assistente? No, è che sta succedendo niente, tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Sai quando succede che gli ospiti non rispondono 3 minuti prima della diretta? Ma vuoi che ti parli della mia esperienza quotidiana? Anche il dottor Lopresti stamattina facevo fatica a trovarlo, ma poi invece sono stati molto bravi. No, ma adesso è tutto a posto. Va speriamo. Bene, allora, quasi. Alle 12, Sabatanaio, oggi il Sole 24 Ore pubblica un bel dossier, si chiama Guida agli investimenti sicuri, e noi lo abbiamo rubato e stamattina daremo qualche indicazione sempre ai nostri risparmiatori. Sempre lì finisce, sono lì sempre, pronta per le manette. E allora, noi parliamo di intercettazioni. Intercettazioni è il nostro sondaggio, secondo voi occorre limitarne l'uso? Questo vi chiediamo. Il disegno di legge sulle intercettazioni oggi in discussione, pare finisca l'iter della commissione al Senato e poi andrà in aula, promettendo già scintille politiche. Dovete votare su radio24.it nell'home page, bianco o nero. Ne parliamo invece, se volete, 800 24 00 24. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Il disegno di legge oggi sulle intercettazioni dovrebbe concludere l'iter in commissione al Senato, poi arriva in aula, si preannunciano scintille politiche certamente per questo provvedimento che, se avete preso un qualsiasi quotidiano negli ultimi giorni, vedete, sta suscitando molte polemiche. Premessa: come oggi ricorda Giuliano Ferrara sul Foglio, nel suo editoriale, è vero, siamo uno dei pochissimi paesi al mondo, forse l'unico, in cui escono giornali con lenzuolate di intercettazioni anche di persone che poi magari si rivelano innocenti su fatti penalmente irrilevanti, poi si scopre, anche su questioni intime, private. Ricordate i messaggi d'amore tra Ricucci e Anna Falchi o le inclinazioni sessuali di Balducci, inquisito per il G8 in questi giorni. Tutto giusto, ma l'accusa di molti che dicono è una legge bavaglio quella che si sta facendo, è che in nome di una tutela sacrosanta della privacy si stanno approvando delle norme che invece colpiscono lo strumento stesso delle intercettazioni e che impediscono all'opinione pubblica di essere informata anche su fatti importanti. Allora, da che parte state? 800 24 00 24, ditecelo. Ne parliamo con due politici che saluto. Filippo Berselli, buongiorno, il presidente della Commissione Giustizia, buongiorno a voi, del Popolo della Libertà, e il senatore dell'Italia dei Valori Francesco Pardi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Io però voglio partire da Luigi Ferrarella, cronista di giudiziaria del Corriere della Sera. Buongiorno Luigi, grazie per la tua disponibilità. Buongiorno a voi. Allora, la norma che più ha fatto discutere, tu ne hai scritto anche un editoriale che è uscito in prima pagina qualche giorno fa sul Corriere, c'è stata anche ieri la risposta di Piero Rostellino, sempre sul Corriere, è questo: con la scusa di colpire l'abuso di intercettazioni, che certo c'è, questa norma renderà i cittadini più insicuri di fronte alla delinquenza, meno uguali a forza di eccezioni per parlamentari, preti, agenti segreti, più disinformati, soprattutto per quella norma che impedisce, che impedirebbe se passasse la legge, di pubblicare anche per semplice riassunto qualunque atto di indagine non più coperto da segreto. Questo in pratica, in concreto, cosa vorrebbe dire? Sì, questo è il punto, cioè la legge che viene presentata come un intervento per la parte giornalistica, diciamo, anche sul regime di pubblicabilità delle intercettazioni, in realtà interviene molto drasticamente sulle regole di pubblicazione non soltanto eventualmente delle intercettazioni, ma di qualunque atto giudiziario, anche se non è più coperto da segreto fino alla fine dell'udienza preliminare. In queste settimane c'è stata la vicenda di un ministro della Repubblica che si è dimesso perché è venuto fuori che aveva pagato parte della sua casa in nero con soldi che asseritamente non sapeva altri avessero versato per lui. Bene, quella vicenda è stata esempio di una serie di contributi giornalistici autonomi della professione che però sono partiti da due dati giudiziari, e cioè l'esistenza di una deposizione delle due venditrici della casa che dicevano una parte di questa somma ci è stata data con assegni, e questi assegni, asseritamente frutto di soldi neri, effettivamente trovati agli atti. Questi due dati emergevano ai giornalisti da il deposito di altri atti in un'indagine giudiziaria. Questi due atti potrebbero essere pubblicati con in vigore questa legge? Con in vigore questa legge, questi due atti fino alla fine dell'udienza preliminare non potevano essere raccontati alla gente neppure per riassunto. Quindi tu forse avresti potuto dire che il dato di fatto storico, ammesso che tu l'avessi conosciuto, ma siccome non avresti potuto conoscerlo, non avresti neppure, per esempio, potuto sapere che esistevano le due sorelle e andare autonomamente a intervistarle. Questa, insomma, è l'accusa di fondo, cioè in nome di una tutela della privacy si vuole colpire e si colpisce in maniera un po' indiscriminata. Senatore Berselli, oggi Giuliano Ferrara, in prima pagina del Foglio, basta con sputtanopoli, inchieste e portineria, giornalisti origliatori, e su questo possiamo essere d'accordo, però non è che per dire basta a questo avete estate mettendo appunto una legge bavaglio, come qualcuno l'ha definita? Non è tanto bianco o nero, il problema è trovare un punto di equilibrio, arrivo a dire anche di mediazione o di compromesso, tra il sacrosanto diritto di cronaca, l'altrettanto sacrosanto diritto alle indagini e l'ulteriore diritto costituzionalmente garantito alla privacy. Mi rendo conto che trovare un punto di equilibrio non è facile, ma dobbiamo impegnarci a individuarlo, perché diversamente, quando il diritto alle indagini viene a soppassare il diritto alla privacy, vediamo poi quello che è capitato negli ultimi tempi, così come il diritto di cronaca deve essere in qualche modo limitato al diritto alla privacy, senza il quale certamente vediamo le eventuate intercettazioni che non troviamo in nessun altro paese europeo, ma direi in nessun altro paese civile. Ma senatore, non potrebbe essere il punto di equilibrio a dire becchiamo chi fa uscire, chi la manina che passa al giornalista queste intercettazioni e lo puniamo severamente, punto, finita. Su questo siamo assolutamente d'accordo, punire la manina, io direi di tagliare la manina. La tagli, la puni, faccia quello che... È chiaro che la responsabilità maggiore è della manina, e su questo siamo tutti d'accordo, però evidentemente c'è una responsabilità del giornalista. C'è stato un gran cancan sul fatto che sembrava che i giornalisti venissero messi in galera, ma nessuno vuole mettere in galera i giornalisti. Sono assolutamente d'accordo che la sanzione va modulata, la manina deve avere la sanzione maggiore, però il giornalista deve essere responsabilizzato, perché oggigiorno il giornalista, se non vale errato, ha una sanzione pari a 238 euro di ammenda, è una cosa veramente ridicola. Però le chiedo, senatore, per andare in concreto, se noi non sapessimo oggi della vicenda Scajola, come ha raccontato Luigi Ferrarella, secondo lei saremmo un paese migliore o peggiore da questo punto di vista? Non è che da questo misuriamo il meglio o il peggio del paese? Cioè, secondo lei è meglio o peggio? Non è che si hanno pubblicato... quello che hanno pubblicato su Scajola, oggi siamo un paese migliore. No, va, voglio dire, però secondo lei è giusto sostenerla, che dal momento in cui Scajola si è dimesso da ministro, oggi siamo un paese migliore. No, questo no, però è giusto che si sia saputo o no? Mettiamola così, secondo lei, la vicenda Scajola, le dimissioni, tutta la vicenda, oppure era meglio o è meglio non... Ma la vicenda Scajola comunque si sarebbe saputa al termine degli atti preliminari, non è che non si sarebbe saputa, non è che sarebbe stata segretata, non è che sarebbe stata occultata, si sarebbe comunque saputo, si sarebbe saputo in tempi diversi. Tra un paio d'anni forse. Adesso non lo so, anche lì purtroppo noi abbiamo una giustizia che va al passo della lumaca, questo è un altro discorso, tant'è che in Commissione Giustizia abbiamo la riforma del processo penale. Però io andrei un attimo cauto, sa perché? Perché noi siamo addirittura d'arrivo al Senato della Repubblica, questa notte o domani mattina noi lo licenzieremo, però ho motivo di credere che il testo che verrà approvato dal Senato non sarà esattamente quello che verrà licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato. Io ho accelerato i tempi perché mi trovo in una situazione veramente paradossale, ho una Commissione Giustizia impantanata su questo disegno di legge, non riusciamo a fare altro. Da qui la fretta di concludere l'iter di questo provvedimento. Però ho motivo di ritenere che quando arriveremo in aula, io credo che lo stesso governo presenterà degli emendamenti per aggiustare il testo, perché è mia convinzione che si farà di tutto al Senato per licenziare un provvedimento, un testo, non più suscettibile di altre modifiche da parte della Camera. Allora, guarda, cioè, si ritorna terza lettura, la provi definitivamente. Sì, l'ipotesi è che si ritorni al testo della Camera. In ogni caso, questi sono tecnicismi, magari Ferrarella ci aiuterà tra un attimo. Prima però vorrei andare al senatore Pardi. Ha sentito, senatore Berselli dice, sì, della vicenda Scajola sarebbe saputo solo in tempi più differiti, insomma, non è che viene secretato questo, tutto. Questo bisogna vedere quanto sarebbe durato poi tutto il percorso delle indagini preliminari, ma mi sembra prima di tutto che si faccia una grossa confusione sulla questione delle manine. La manina che prende le intercettazioni che sono ancora segrete e le pubblica è sanzionabile. Qui si sta parlando di atti pubblici perché sono stati depositati. Se un atto è stato depositato e gli avvocati ne sono venuti a conoscenza, l'opinione pubblica ha il diritto di saperlo, e questa è la cosa fondamentale. È questo che invece vuole essere impedito, quindi qui c'è una netta prevalenza sproporzionata del diritto alla riservatezza sopra il diritto assai più fondamentale di informare e di essere informati, come hanno detto Onida e Pace, che sono persone che se ne intendono, grandi costituzionalisti. Quindi qui siamo di fronte a un processo che porta diritto all'omertà di Stato. Tra l'altro, quanto alla faccenda di Scajola, io penso che la cosa fondamentale è anche capire la differenza che c'è tra i delinquenti e i politici. Ora, qui si invoca il diritto alla riservatezza perché non bisogna sputtanare, come dice elegantemente Ferrara. Il problema è che noi bisogna garantire che i politici abbiano una consistenza trasparente. Il politico è diverso da tutti gli altri, il politico deve corrispondere dei propri atti, anche quando nella vita privata fa delle cose che sono di rilievo pubblico. Cioè, io non dico che il politico debba essere messo sotto il televisore dalla mattina alla sera, ma se, per dire, nel caso Scajola, il caso Scajola è chiaramente esemplare. Scajola ha comprato una casa e ne ha pagata meno della metà. Era meglio saperlo o non saperlo? È meglio saperlo, ma la cosa a rilevanza giuridica non me ne importa nulla, ha rilevanza politica. Sapere che un ministro si fa pagare da un affarista la casa, anche se non ha rilevanza giuridica, ha rilevanza politica. L'opinione pubblica deve saperlo, secondo me. L'opinione pubblica deve sapere tutto. Allora, Luigi, oggi anche Luca Ricolfi striglia un po' e tira le orecchie ai giornalisti, dice: quanto ai critici della legge, in particolare i giornalisti, troppo spesso dimenticano che sono anche i loro comportamenti ad avere appiccato l'incendio che ora rischia di bruciare tutto e tutti. Però, detto questo, qualche diciamo tonfo, qualche capitombolo c'è stato nello scadere nella non tutela della privacy. Però su questo è curioso, perché spesso se ne lamenta chi in passato ha praticato quei comportamenti. Per esempio? Qui non siamo tutti uguali, è inutile, cioè sarà antipatico dirlo, però ho sentito, tu prima ricordavi l'esempio dell'SMS tra l'allora compagna di Ricucci e Ricucci. Ebbene, non l'hanno pubblicato tutti i giornali con l'SMS, e quello che di solito si dimentica di dire è che i giornalisti del quotidiano che lo pubblicarono sono andati incontro alle sanzioni al garante della privacy. Cioè, non è che c'è una zona di impunità di queste cose, così come non è vero che ci sono comportamenti uguali tra tutti i giornalisti. Ma mi permetto di cogliere nell'intervento di Berselli intanto una buona notizia, cioè mi sembra di capire che verrà cambiato, qualunque testo esca oggi o questa settimana dalla Commissione Giustizia, si sa già che verrà cambiato al Senato. Ecco, mi permetto però di chiedere, allora come mai, per esempio, posto che proprio un esponente della maggioranza, addirittura credo, se non sbaglio, una compagna di partito di Berselli, l'anno scorso alla Camera aveva fatto approvare un emendamento che aveva corretto l'iniziale disegno di legge che già all'epoca impediva la pubblicazione per riassunto di qualunque atto coperto da segreto, e aveva introdotto l'emendamento, invece si può fare per riassunto, questa cosa approvata alla Camera sia stata cambiata adesso in Commissione. C'era Giulia Bongiorno, no, Presidente? Giulia, buongiorno. Ecco, senatore Berselli, peraltro è Presidente della Commissione Giustizia alla Camera, Giulia Bongiorno, sua collega, certo, di partito. Perché lei l'aveva tolto e invece voi l'avete messo? No, e poi ci sta dicendo che forse verrà ritolto al Senato. No, allora cerchiamo di intendere, perché non vorrei essere travisato. Come Presidente della Commissione Giustizia, e quindi non parlo a nome del Governo e né voglio parlare a nome del relatore, io ho espresso la mia opinione, che è questa, la ripeto, non voglio coinvolgere con questo governo, che col governo non c'entra affatto. Io dico che riterrei opportuno confezionare un testo in aula tale da non essere suscettibile di ulteriori modifiche da parte della Camera, questo detto. Quindi, che deve essere uguale alla Camera. Io auspicherei alcuni interventi modificativi, nel senso di fare in modo che la Camera in terza lettura lo approvi così com'è, per evitare una sorta di melina parlamentare tra Camera e Senato. Traduciamolo per non tecnici, senatore, vuol dire che deve essere, traduciamolo per non tecnici, dovrebbe essere lo stesso testo licenziato alla Camera, se no ci vuole una terza lettura. No, non dovrebbe assolutamente essere il testo licenziato dalla Camera, perché noi abbiamo portato numerosi emendamenti migliorativi rispetto al testo licenziato alla Camera e che andavano incontro a questi emendamenti a numerose sollecitazioni che ci erano pervenute anche da parte dell'opposizione. Quindi assolutamente no al testo licenziato dalla Camera, ma un testo migliorativo, nel senso che noi abbiamo tenuto in debita considerazione non soltanto le sollecitazioni che ci provenivano dalla maggioranza, ma anche quelle che ci venivano dall'opposizione. Deve essere chiaro questo. Sì, tant'è che l'opposizione fin dall'inizio ha detto dovete ritirare il provvedimento, ma la stessa opposizione sa perfettamente che alcune modifiche che sono state sollecitate dalla sono state accolte dalla maggioranza. Allora, questo è il suo auspicio. Chiaro. Sentiamo due ascoltatori. Luca da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Sia rapido. Rapidissimo, qui mi sembra che a furia di dire purtroppo di qua, purtroppo di là, cioè siamo lenti nella giustizia, eccetera, eccetera, invece di sbrogliare la matassa si tende a complicarla di più. Io non capisco perché certe cose non si debbano sapere e non capisco neanche qual è il limite della privacy di queste persone. Se mi permettete un esempio velocissimo, sapere se un parlamentare ha determinate diciamo così pendenze o comunque inclinazioni sessuali, sì, nel momento in cui questa persona decide anche al mio posto quando si tratta questo tema alle Camere, cioè le interessa, non è un fatto da poco, lei vuole sapere tutto. Guardi, però le inclinazioni sessuali di Balducci nella vicenda del G8, che su questo siamo d'accordo, no? Pubblicate da Repubblica, peraltro. Assolutamente, bisogna stabilire un limite, però non è vero che poi tutto ciò che rientra nella sfera personale di queste persone deve essere assolutamente segreta. Però il crinale è molto molto sottile, Luca. Voglio andare a Roma, da Moreno, buongiorno. Buongiorno, dica. Volevo intervenire in merito all'argomento in questione. Innanzitutto... tengo a precisare che secondo me il ruolo in questo momento della Presidente della Commissione Giustizia alla radio è sbagliato, perché i politici devono fare i politici e ognuno deve fare il suo lavoro. Che deve fare? Non può fare un'intervista? Ma a mio modo cercano un po' di fama. Comunque non era quella la cosa. Ma che c'entra? Scusi, non è vero, il senatore Berselli è presente alla commissione e fa un'intervista. Cioè, esatto, però secondo me è sbagliato, però non è questo il motivo. Vabbè, dica l'intervento. Secondo me l'errore viene dai giornalisti, in quanto hanno usato male le informazioni fino ad oggi, cioè i giornalisti tendono a fare dei processi sommari sul giornale, sui quotidiani, e in base a poi al quotidiano, se di destra o di sinistra, tendono anche a dire la loro opinione. Questo è il vero errore in tutto questo. Allora, si fermi lì Moreno. No, si fermi lì Moreno. Concetto, finché una persona non viene giudicata, è inutile giudicarla sul giornale. È interessante, Moreno. Abbiamo un minuto. Luigi, devo tornare a Luigi Ferrarella, senatore Pardi mi scuserà. Luigi, i processi sommari fatti sui giornali, questa è l'accusa. Ma l'accusa ha un suo fondamento, però è incoerente rispetto alla soluzione proposta dall'ascoltatore, e cioè il rimedio è far sì che ci sia una sempre maggiore diffusione delle informazioni pubbliche, non più coperte da segreto all'interno delle inchieste giudiziarie, in modo che l'ascoltatore possa trovare su almeno qualche giornale, su almeno l'articolo di qualche giornalista più in linea con l'auspicio che egli ha proposto, la rappresentazione corretta di quel materiale di indagine. E in tempi compatibili con la capacità di autodeterminarsi dei cittadini, perché quando Berselli dice vabbè, ma noi di Scajola avremmo saputo lo stesso alla fine dell'indagine, gli ricordo che l'inizio del processo, per esempio Unipol, dove c'erano le telefonate di molte persone che sono state di grande interesse anche per la parte politica di Berselli, che non fece grande uso politico, è cominciato questo processo un anno fa. Le telefonate sono, anzi un anno fa, scusate, due due mesi fa, perché era quasi... Le telefonate sono del 2005, vuol quindi dire facciamo, quasi facciamo 5 anni dopo. Non credo che ci possiamo permettere 5 anni per sapere se un ministro si è comprato la casa con i soldi suoi o con i soldi di qualcun altro. Senatore Berselli, seduta notturna, ma è vero che qualcuno dormiva in commissione dei senatori? No, no, non dormiva, ma al massimo dormicchiava, perché indubbiamente siamo arrivati fino alle 4:30 la mattina. Faccia il delatore, chi è che dormicchiava? Chi dormicchiava, lo dica. No, non dormicchiava. Cioè, dormicchiavano, sai, sia all'interno della maggioranza che dell'opposizione. Io mi ricordo che a un certo punto l'autorevole esponente dell'opposizione ha cominciato a gridare: domani mattina in aula denunceremo il presidente della commissione giustizia perché mira alla salute dei parlamentari. Anche i parlamentari hanno diritto alla salute. Alla salute. E al riposo, come tutti i lavoratori. Un pisolino bipartisan è stato. Grazie a tutti. Peter Bescapè in regia. Oggi saluto anche Gaia Romani in redazione con Sara Spreafico. E allora do la linea al nostro direttore Gianfranco Fabi. Si parla di internet nel giorno in cui, tra l'altro, il sole 24 ore.com è tutto rinnovato. Molto bello, andate a vederlo. A domani.